Si tratta di un passo indietro per la Palestina, per la causa palestinese, e poi può segnare una pausa del conflitto, ma la guerra, il conflitto israelo-palestinese andrà avanti. Ci sono vari motivi per cui questa valutazione può essere avanzata. Uno, per esempio, riguarda i punti controversi di questo piano. Uno dei punti controversi è il ritiro graduale dell'esercito israeliano da Gaza e un ritiro che poi non è detto che avvenga. Lo stesso si può dire per tutti i corridoi che potrebbero essere ancora occupati dall'esercito israeliano. Pensiamo al corridoio Filadelfi, per esempio, che è al confine con l'Egitto, al valico di Rafah, e quindi non è detto che il ritiro dell'esercito israeliano avvenga, mentre vari altri attori, come i paesi arabi vicini, pensiamo all'Egitto, al Qatar, hanno ottenuto un punto da questo piano, che è lo stop allo spostamento forzato, alla deportazione, alla pulizia etnica dei palestinesi, che sicuramente è un punto positivo, però questo non vuol dire che porterà alla pace e alla fine del conflitto israelo-palestinese. Alcuni critici osservatori internazionali hanno definito questo piano come una strategia neocoloniale. Questa accusa, secondo lei, ha dei fondamenti? Certo, soprattutto su un punto. Secondo quello che sappiamo finora del piano, è prevista la formazione, la costituzione di un Board of Peace, che sarebbe guidata da politici come lo stesso Donald Trump e anche da Tony Blair, che sono delle figure molto controverse per la storia del Medio Oriente. Pensiamo solo al fatto che Tony Blair è associato con il disastroso conflitto in Iraq. Quindi questi elementi hanno sicuramente un sentore postcoloniale, neocoloniale, per cui sono le potenze straniere e le potenze coloniali che devono decidere la sorte dei palestinesi. Evidentemente questo non porterà a molto, perché pensare ad un governo tecnocratico che determini la completa esclusione di Hamas da una parte e anche l'estromissione dell'autorità nazionale palestinese, che in questo modo non avrà un ruolo nella governare la striscia di Gaza, almeno in questa fase di transizione, non sono sicuramente dei punti a favore di questo piano, e poi soprattutto non porteranno alla fine alla cancellazione dell'ideologia, delle idee di Hamas, che sono molto vive tra i palestinesi, un senso di ingiustizia, di subire uno stato di apartheid, del genocidio in corso. Quindi è evidente che tutte le questioni più importanti resterebbero aperte. Sostanzialmente si metterebbe una specie di toppa, e una toppa che non funzionerebbe neanche così tanto bene, visto che sotto questa toppa continuerebbero a esserci queste ideologie e queste violenze, giusto? Sicuramente sarebbe un modo per fare una pausa, che è una cosa importante anche quella, perché comunque stiamo parlando di un conflitto che va avanti da 2 anni, oltre 65.000 morti, centinaia di migliaia di sfollati o deportati. Poi bisognerà vedere quali sono i numeri veri, perché ci sono delle cifre molto, che hanno un range molto ampio, che vanno da 150.000 a 700.000, in base poi alla propaganda dell'esercito italiano, che parla di una quantità di palestinesi che hanno lasciato Gaza City. Poi bisognerà vedere se questo è vero, perché molti palestinesi continuano a rimanere invece nelle loro case, nel loro territorio, perché lo vogliono difendere, non vogliono perdere la loro terra, come è successo nel 1948. Ma soprattutto questo impianto non apre la strada alla formazione, alla nascita, alla fondazione dello Stato palestinese. Ora, questo punto è molto importante, perché sappiamo che c'è stato un passo avanti, che è stato fatto con il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di paesi come la Gran Bretagna e la Francia, però sappiamo che dall'altra Netanyahu chiude qualsiasi porta alla possibilità che nasca uno Stato palestinese. Quindi ogni piano che non prevede una giustizia e il riconoscimento dei territori palestinesi come uno Stato è un piano fallace, un piano limitato, un piano che può soltanto avere una breve vita, una breve durata. Però questo, per esempio, non è detto che non sia visto di buon occhio da alcuni paesi. Pensiamo al Qatar, che ha ottenuto alla vigilia di queste dichiarazioni, dopo la quarta visita di Netanyahu a Washington, le scuse da parte del premier israeliano per gli attacchi che ci sono stati in Qatar. Ricordiamo di questi attacchi di settembre, che hanno messo una pietra tombale sul negoziato, perché sono stati colpiti gli stessi negoziatori a Doha. Quindi è evidente che il Qatar ha ottenuto quello che voleva da un punto di vista diplomatico, cioè di far riconoscere a Israele che quell'attacco è stato un errore. Poi ovviamente ci sono anche tante altre questioni, come la consegna degli ostaggi, la liberazione dei prigionieri politici palestinesi, che devono essere definite. In tutto questo, il ruolo dell'Europa quale potrebbe potrebbe essere? Rischia di rimanere marginale ancora una volta su una questione molto importante? Le prime dichiarazioni sono molto favorevoli da parte di Ursula von der Leyen e di vari paesi europei, inclusa l'Italia, su questo accordo. Ricordiamo che ci sono tante voci diverse, per esempio l'Italia fa fatica addirittura a riconoscere lo Stato della Palestina rispetto a quello che è stato fatto da Francia e Gran Bretagna, che non hanno fatto un grande sforzo, hanno riconosciuto una realtà sul campo ed è stato un riconoscimento tardivo. Quindi da questo punto di vista l'Unione Europea continua a rischiare di essere subordinata alle decisioni che vengono prese da Donald Trump, a non avere un ruolo efficace, e invece quello su cui dovrebbe premere l'Unione Europea è la fine dell'assedio, all'ingresso degli aiuti umanitari numeri senza precedenti per aiutare la popolazione di Gaza, all'ingresso della stampa internazionale, all'apertura della società civile, che è richiesta a gran voce dalla società civile palestinese, ma non solo, di tutto il mondo. Pensiamo alla Simon Flottiglia, a quello che stanno facendo i compagni e le compagne che cercano di arrivare a Gaza nonostante qualsiasi ostacolo che viene posto al loro cammino verso il mare di Gaza, che poi è un mare dell'autorità nazionale palestinese, un mare palestinese, nonostante l'assedio che impedisce via mare, via terra e via cielo di raggiungere Gaza, che è perpetrato dalle autorità israeliane.